Stiamo sbloccando al casello per permettere la viabilità dei mezzi di soccorso di entrarci, perché abbiamo la terra alta 4 metri sotto al ponte dell'autostrada, che è l'unico accesso che abbiamo. I dispensi per ora noi non ne abbiamo. Paesaggio lunare, paesaggio lunare, vi ho detto tutto.